peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre nuove uscite di artisti importanti del pianoforte, che appunto direi che un paio quantomeno stanno cercando strade diverse. Sono molti appunto gli artisti che giunti al pieno della maturità ricercano anche formule espressive diverse da quelle che gli hanno reso celebri, perlomeno. Il primo, tutti importanti, sono tre personaggi importanti, tutti ben maturi, e cominciando dal primo, Brad Mehldau, pianista che sicuramente rappresenta una delle punte massime della generazione successiva a Keith Jarrett, e è uscito con, come spesso fa, con un nuovo lavoro, sempre per l'etichetta Nonesuch, intitolato Ride into the Sun, dove suona con un'orchestra, o perlomeno utilizza l'orchestra, un'orchestra diretta da Dan Coleman, e con la quale poi smembra e interviene sulle varie situazioni timbriche dei brani che propone. Indubbiamente risente di una certa nostalgia per la sua formazione, per le sue preferenze giovanili, cioè quelle di una certa vicinanza che con un certo tipo di rock, che appunto sicuramente ha segnato un po' tutte, anche le nostre generazioni. Lui è sicuramente più giovane, ma insomma. E il risultato, a mio avviso, è decisamente apprezzabile, sicuramente piacevole, ma apprezzabile complessivamente come tentativo che si può definire anche ben riuscito. Ascoltiamo, appunto, gli ospiti sono vari e si alternano anche in varie situazioni. Adesso per citarne qualcuno, John Davis al basso acustico e anche elettrico, poi Daniel Rosen alla voce, alla chitarra, e poi Felix Moselom al basso acustico in questo caso, e poi molti, l'orchestra appunto che interviene dove è richiesto. Gli arrangiamenti sono stati curati da lui, oltre che dall'aiuto appunto di Dan Coleman. Ascoltiamo tre brani presi da questo Ride into the Sun. Thank you. Yes. Era Brad Mehldau con l'ultimo disco, Ride into the Sun. E passando ad un altro maestro, diciamo, della contemporaneità, tutto un altro mondo, diciamo, espressivo, si tratta di Matthew Shipp, è anche il più anziano dei tre che ascolteremo. Ma Matthew Shipp, che ha già 65 anni, insomma, comunque diciamo che è un musicista maturo ormai da tempo, che tutti gli anni escono uno o più pubblicazioni a suo nome, e devo dire che le prove che mi convincono di più e che mi piacciono in assoluto di più sono quelle in piano solo, perché sono anche quelle che gli consentono di non dover interagire con altri a cercare delle strade nuove, ma di continuare a scavare dentro la propria convinzione, musicalità, il proprio estro, insomma, per proporre delle cose nuove. In questo caso, sempre per l'etichetta Cantaloup, che probabilmente sarà l'unico musicista che produce, e Cosmic Piano si intitola, e sono tutte composizioni firmate da lui. Ascoltiamo tre brani presi da questo Cosmic Piano, Matthew Shipp. Thank you. Provo. Il memo. Era Matthew Shipp con il suo mondo espressivo, decisamente scodellato con la consueta profondità. Bel disco questo Cosmic Piano, uscito appunto di recente. Passando all'ultimo, il più giovane direi, appena qua, neanche cinquantenne diciamo, Jason Moran, che probabilmente è il nome più, diciamo, di quelli nascenti quantomeno, ormai più consolidato e più rappresentato, ha avuto modo anche di suonare nei contesti più diversi e che appunto hanno messo anche in luce quelle che sono le sue capacità di adattamento anche alle varie situazioni. E poi naturalmente ha anche un suo mondo nel quale vuole potersi esprimere, ed è la seconda volta che propone un lavoro orchestrale, o meglio, propone un lavoro con il sostegno anche di un'orchestra. È andato a recuperare la Trondheim Jazz Orchestra, diretta, insomma, diciamo, rappresentata anche da Ole Morten Wagen, intitolato Go to your North. E, un disco come il precedente, piuttosto, come dire, complesso nell'insieme, con momenti sicuramente di grande apertura nell'utilizzo anche dell'orchestra. Dell'orchestra direi che non sto a dire i nomi, perché posso dire perlomeno Matt Rasmussen al sax contralto, o Jonas Kullamar al tenore. Queste sono poi, diciamo, le voci più rappresentative, più un mondo di musicisti nordici che sono sempre all'altezza del compito che assumono. E ascoltiamo tre brani anche in questo caso, l'ultimo dei quali è l'unico che non è composto da Jason Moran, e viene arrangiato, viene anche abbastanza stravolto, e si tratta dell'intermezzo opera 118, la seconda di Brahms. Curiosa questa scelta, e però è molto interessante anche come riesce a declinare un classico, un grande classico del con il proprio stile pianistico, utilizzando prevalentemente l'aspetto melodico per adattarlo al proprio linguaggio. Ascoltiamo questi tre brani presi dall'ultimo lavoro Go to your North di Jason Moran con l'orchestra di Trondheim. Thank you. Thank you. Questo era Jason Moran col suo ultimo lavoro, Go to Your North, con l'orchestra di Trond, la jazz, la Trondheim Jazz Orchestra, diretta da Ole Morten Wagen, un'orchestra, diciamo, nordica, che appunto ha interpretato le scritture, le partiture, le indicazioni di Jason Moran, con un risultato, a mio avviso, apprezzabile decisamente. Questo era l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le trovate nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima!